Diciassettesima traccia. Mia cara, cara, ansiosa amica, diceva in un muto colloquio mentre scendeva le scale della sua camera. Sempre sollecita del benessere di ciascuno fuorché del tuo. Ti vedo ora in tutte le tue piccole agitazioni recarti più e più volte nella camera di lui per accertarti che tutto va bene. L'orologio batté le 12 mentre ella passava per il vestibolo. Sono le 12, non mi dimenticherò di pensare a te di qui a 4 ore, e a quest'ora, domani, forse, o un po' più tardi, potrò pensare alla possibilità che tutti loro vengano a far visita qui. Sono sicura che lo condurranno presto. Aprì l'uscio del salotto e vide 2 signori seduti con suo padre, Mr. Weston e suo figlio. Erano arrivati solo da pochi minuti, e Mr. Weston aveva appena finito di spiegare perché Frank era arrivato un giorno prima del tempo fissato. Il padre di Em era ancora nel bel mezzo delle sue cortesissime accoglienze e congratulazioni quando essa apparì per avere la sua parte di sorpresa, di presentazione e di piacere. Il Frank Churchill, di cui si era tanto parlato, che suscitava tanto interesse, era davvero dinanzi a lei, le venne presentato, ed essa non pensò che troppo fosse stato detto in sua lode. Era un giovanotto di bellissima presenza, statura, aspetto, maniera, tutto era irreprensibile. Il suo aspetto aveva un bel po' dello spirito della vivacità di suo padre. Appariva sveglio e assennato. Emma sentì immediatamente che le sarebbe piaciuto, ed egli mostrava una garbata disinvoltura di modi e una inclinazione a conversare che la convinsero che egli veniva con l'intenzione di far la conoscenza di lei, e che presto dovevano fare amicizia. Era giunto a Randalls la sera prima. Piacque a lei la premura d'arrivare che gli aveva fatto cambiare il suo progetto e mettersi in viaggio di buon'ora, arrivare a un'ora tarda per correre il tragitto più rapidamente per poter guadagnare mezza giornata. «Vi dissi ieri», esclamò esultante Mr. Weston, «vi dissi a tutti che sarebbe arrivato qui prima del tempo annunziato». Mi ricordavo ciò che solevo fare io stesso. Non si può viaggiare come le lumache, non si può fare a meno di andare più velocemente di quanto si è progettato. E il piacere di capitare addosso agli amici prima che abbiano cominciato ad aspettarci ripaga assai il piccolo sforzo che costa. È un gran piacere quando uno se lo può concedere, disse il giovane, sebbene non ci siano molte case con le quali mi azzarderei di farlo. Ma trattandosi della casa propria, sentivo che potevo permettermi tutto. La parola casa propria fece sì che suo padre lo guardasse con rinnovata soddisfazione. Emma fu subito sicura che egli sapeva come rendersi gradito. Tale convinzione fu rinforzata da ciò che seguì. Gli piaceva molto Randalls, la riteneva una casa ad una disposizione mirabile. Non concedeva neppure che fosse piccola. Ammirava la sua situazione, la passeggiata Highbury stessa, Harfield ancora di più, e dichiarava di aver sempre sentito per quella regione il genere di interesse che provoca soltanto il paese proprio e la più gran curiosità di visitarla. Che egli non fosse riuscito mai prima a lasciar libero corso a un così amabile impulso attraversò con l'ombra d'un sospetto la mente di Emma, ma pure se era una falsità, e una falsità piacevole, e piacevole era il modo di porgerla. La sua maniera non aveva nulla di studiato o esagerato. Aveva davvero l'espressione e il linguaggio di chi si trovasse in uno stato di godimento non comune. I loro temi in genere furono di quelli propri all'inizio di una conoscenza. Da parte di lui ci furono le domande. Andava a cavallo, faceva piacevoli cavalcate, piacevoli passeggiate. Avevano un'estesa cerchia di vicini, Ivory forse forniva abbastanza società, c'erano nel paese intorno molte case graziosissime. Balli? Avevano balli? Era una società che amava la musica? Ma quando fu soddisfatto su tutti questi punti e la loro conoscenza ebbe fatto progressi in proporzione, egli riuscì a trovar modo, mentre i loro due padri erano insieme occupati, di introdurre il tema della matrigna, di parlare di lei con sì calda ammirazione, con tanta gratitudine per la felicità che assicurava suo padre e per la gentilissima accoglienza che aveva fatto a lui, da fornire una prova ulteriore che egli sapeva l'arte di compiacere e che certamente pensava che valesse la pena di compiacere a lei. non disse una parola d'elogio di più di quel che sapeva essere interamente meritato da Mrs. Weston, ma indubbiamente egli poteva sapere ben poco in proposito. Capiva ciò che sarebbe riuscito gradito. Di poco altro poteva essere sicuro. Il matrimonio di suo padre, diceva, era stato un passo quanto mai saggio. Ogni amico doveva rallegrarsene e la famiglia da cui egli aveva ricevuto una tal benedizione doveva essere sempre considerata come quella che aveva i maggiori titoli alla sua gratitudine. Giunse il più vicino che poteva a ringraziarla per i meriti di Miss Taylor, senza parere di dimenticare del tutto che, secondo quanto avveniva di solito, si doveva piuttosto supporre che Miss Taylor avesse formato il carattere di Miss Woodhouse anziché viceversa. E alla fine, come se fosse risoluto a precisare del tutto la sua opinione per tornare, dopo un giro al suo argomento, terminò con l'esprimere il suo stupore per la gioventù e la bellezza della persona di lei. A maniere eleganti, gradevoli, c'ero preparato, egli disse, ma confesso che, tutto considerato, non mi aspettavo più di una donna piuttosto anziana e molto moderatamente attraente. Non sapevo che avrei trovato in Mrs. Weston una donna giovane e graziosa. A mio modo di sentire, ogni perfezione che troverete in Mrs. Weston non sarà mai abbastanza, fece Emma. Se anche congetturaste che avesse le 18 anni, ascolterei con piacere, ma lei sarebbe pronta a bisticciarsi con voi per aver usato tali parole. Non lasciatele immaginare che avete parlato di lei come di una donna giovane e graziosa. Spero di essere più accorto, rispose lui. No, contateci, con un inchino profondo. Rivolgendomi a Mrs. Weston, io comprenderò chi posso lodare senza pericolo d'essere considerato stravagante nelle mie parole. Emma si domandò se avesse attraversato la mente di lui lo stesso sospetto che si era fortemente impossessato della sua, di quel che poteva attendersi dal loro far conoscenza reciproca. E se i complimenti del giovane Weston potevano considerarsi come segni di acquiescenza o come prova di sfida? Doveva vederlo di più per capirne i modi, dal momento sentiva solo che erano piacevoli. Essa non aveva alcun dubbio su ciò che Mr. Weston pensava spesso. Parecchie volte lo colse nell'atto di dare una rapida occhiata verso loro due con un'espressione felice. E anche quando egli poteva essere deciso a non guardare, essa era sicura che spesso stava ascoltando. La perfetta assenza in suo padre d'ogni pensiero di quella sorta, l'intera mancanza in lui di tutto quel genere di penetrazione o di sospetto, costituiva una circostanza molto tranquillizzante. Per fortuna era tanto lontano dall'approvare il matrimonio quanto dal prevederlo. Sebbene sempre obiettasse ogni matrimonio che veniva combinato, non soffriva mai in antecedenza per timore di vederlo succedere. Pareva che non potesse pensare tanto male del senno di due persone da supporre che volessero sposarsi finché non venissero date prove a loro carico. Essa benedisse questa provvida cecità. Egli adesso poteva, senza l'ostacolo d'un solo sospetto spiacevole, senza andivedere un possibile tradimento da parte del suo ospite, dar libero corso a tutta la sua cortese benevolenza naturale, con informarsi premurosamente di come era stato comodo Mr. Fenchurch durante il viaggio, con l'inconveniente di dover passare 2 notti durante il percorso ed esprimere la sua ansia schietta e genuina di saperlo sicuro di non essersi preso un raffreddore, cosa di cui del resto non poteva concedergli d'esser certo lui, perché finché non fosse trascorso un'altra notte. Fatta una visita ragionevolmente lunga, Mr. Weston cominciò a muoversi. Doveva andarsene. Aveva da fare all'albergo della Corona, a proposito del suo fieno, e un sacco di commissioni da Ford per sua moglie, ma non doveva far premura ad altri. Il figlio, troppo bene educato per dare ascolto all'accenno, saltò pure immediatamente, dicendo: «Siccome hai delle faccende, babbo, coglierò l'occasione per fare una visita che devo fare un giorno o l'altro, e perciò può ben farsi adesso. Ho l'onore di conoscere una nostra vicina», volgendosi a Emma, «una signora che risiede a Ivory o nei dintorni, una famiglia che risponde al nome di Fairfax. Suppongo che non avrò difficoltà a trovarla a casa. Sebbene Fairfax, credo, non sia il nome esatto, credo che sia piuttosto Barnes o Bates. Conoscete una famiglia di codesto nome?» «Ma certo», esclamò il padre di lui, «Mrs. Bates. Siamo passati dinanzi alla sua casa e ho veduto Mrs. Bates alla finestra. «È vero, è vero, tu conosci Miss Fairfax. Mi ricordo che hai fatto la sua conoscenza a Weymouth ed è una ragazza in gamba. Vai a farle visita, sicuro?» «Non è necessario che io ci vada stamattina», disse il giovanotto. «Un altro giorno andrebbe bene lo stesso, ma a Weymouth c'era quel grado di amicizia che... Oh, vai oggi, non rimandarla. Quello che è giusto fare non può essere fatto troppo presto. E inoltre ti devo accennare una cosa, Frank. Dovrebbe essere evitata ogni mancanza di premura per lei qui. Tu l'hai veduta coi Campbell quando essa era l'eguale delle altre persone che frequentava, ma qui sta presso una povera vecchia nonna che ha sì e no abbastanza di che vivere. Se non fai presto la tua visita sarà un affronto». Il figlio aveva l'aria convinta. «L'ho sentita parlare della conoscenza», disse Emma, «è una donna giovane molto elegante». Egli annuì, ma con un sì tanto debole da farla dubitare che veramente fosse d'accordo. Eppure ci doveva essere un ben distinto genere di eleganza per il gran mondo, se si poteva pensare che Jane Fairfax ne fosse dotata solo in modo ordinario. «Se non siete mai rimasto particolarmente colpito dai suoi modi prima», disse Emma, «credo che lo sarete oggi. La vedrete in una luce favorevole, la vedrete e la sentirete». «No, temo che non la sentirete affatto, perché ha una zia che non tiene mai ferma la lingua». «Conoscete Miss Jane Fairfax, è vero, signore?» disse Mr. Woodhouse, che era sempre l'ultimo a pigliar parte a una conversazione. «Allora permettetemi di dirvi che la troverete una signorina molto piacevole. È qui in visita dalla nonna e dalla zia, gente molto per bene, le ho conosciute tutta la vita. Saranno lietissime di vedervi, son certo, e uno dei miei domestici verrà con voi a mostrarvi il cammino». «Mio caro signore, per nulla al mondo, mio padre può insegnarmi la strada». «Ma vostro padre non va fin là, va soltanto alla Corona, che è assolutamente dall'altra parte della via, e ci sono moltissime case, potreste trovarvi assai imbarazzato. E la strada è molto sporca, se non vi tenete sul marciapiede, ma il mio cocchiere può dirvi il punto migliore in cui attraversare la via». Mr. Frank Churchill ancora declinò l'offerta, cercando di rimanere serio, e suo padre gli diede il suo cordiale appoggio esclamando: «Mio buon amico, ciò è affatto superfluo. Frank riconosce una pozzanghera quando la vede, e quanto a Mrs. Bates può arrivare da lei in quattro salti». Furono lasciati andar soli, e con un cordiale cenno del capo da parte dell'uno e un grazioso inchino da parte dell'altro, i due signori si congedarono. Emma rimase contentissima di questo principio di conoscenza e poté quindi mettersi a pensare a tutti loro insieme a Randalls a qualunque ora del giorno, con piena fiducia che sarebbero andati d'amore e d'accordo. Il mattino seguente portò di nuovo Mr. Frank Churchill. Venne con Mrs. Weston, con la quale e con Highbury egli sembrava affiatarsi molto bene. Era rimasto con lei a casa, a quel che pareva, facendole buona compagnia fino all'ora in cui ella soleva fare un po' di moto, e propostogli la scelta della passeggiata si era fissato su Highbury. Non dubitava che ci fossero belle passeggiate in ogni direzione, ma se fosse dipeso da lui avrebbe scelto sempre la stessa. Highbury, quell'ariosa, allegra, amena Highbury, avrebbe formato per lui un'attrazione costante. Per Mrs. Weston, Highbury voleva dire Arfield, ed essa confidava che lo stesso significasse per lui. Si incamminarono direttamente a quella volta. Emma non se li aspettava, poiché Mr. Weston, che aveva fatto una capatina di mezzo minuto per sentirsi dire che suo figlio era un gran bel giovanotto, non sapeva nulla dei loro progetti. Sicché fu per lei una gradevole sorpresa scorgerli che si avvicinavano insieme alla sua casa a braccetto. Desiderava vederli di nuovo, e specialmente veder lui in compagnia di Mrs. Weston, cioè dal suo contegno verso di lei sarebbe dipesa la sua opinione nei riguardi del giovane. Se avesse mancato lì, non ci sarebbe stato rimedio. Ma al vedersi insieme, Emma rimase perfettamente soddisfatta. Egli non faceva il suo dovere soltanto con belle parole o complimenti iperbolici. Nulla poteva essere più appropriato o piacevole del suo intero contegno verso di lei. Nulla manifestare più gradevolmente il suo desiderio di considerarla come un'amica e di guadagnarsi il suo affetto. Ed Emma ebbe tempo di formare un giudizio ragionevole, poiché la loro visita comprese tutto il resto della mattinata. Passeggiarono tutte e tre insieme per un'ora o due, dapprima intorno al vivai di piante e di api, poi in alberi. Egli provava diletto in ogni cosa, ammirava api abbastanza per lusingare l'orecchio di Mr. Woodhouse, e quando si decisero a spingere i loro passi più lontano, egli confessò il suo desiderio di conoscere tutto il villaggio, e trovò materia d'elogio e di interesse assai più sovente di quanto Emma avrebbe potuto supporre. Alcuni degli oggetti della sua curiosità attestavano sentimenti molto amabili. Chiese che gli venisse mostrata la casa in cui suo padre aveva vissuto tanto e che era stata la casa del padre di suo padre. E ricordandosi che una vecchia, che era stata sua baia, viveva ancora, camminò in cerca della sua dimora, da un capo all'altro della via. E sebbene per certe delle sue ricerche e delle sue osservazioni non vi fosse un merito positivo, nell'insieme esse mostravano una benevolenza verso Ivory in genere che doveva rassomigliare assai a un merito agli occhi di coloro con le quali passeggiava. Emma osservò e concluse che con sentimenti come quelli che erano mostrati ora non si poteva onestamente supporre che egli si fosse voluto mai assentare volontariamente, che egli non aveva recitato una parte o fatto bella mostra di proteste non sincere, e che Mr. Knightley certo non gli aveva reso giustizia. La loro prima sosta fu all'albergo della Corona, una locanda tutt'altro che di prim'ordine, sebbene fosse la principale del genere, dove si teneva un paio di cavalli di posta più per la convenienza del distretto che per farli correre sulle strade. E le compagne di Franciorci non si sarebbero attese che egli trovasse là qualcosa di interessante da trattenerlo. Ma passando esse fecero la storia della grande sala che era stata visibilmente aggiunta. Era stata edificata molti anni prima come sala da ballo e come tale usata finché il distretto era stato particolarmente popoloso e amante delle danze. Ma quel brillante periodo era passato da un pezzo. Ed ora il più alto fine per cui la sala veniva richiesta era di ospitare un circolo di whist fondato dai gentiluomini e mezzi gentiluomini del posto. Egli si interessò immediatamente. Il carattere della sala, come sala da ballo, lo attrasse. E invece di passare oltre, egli si fermò per parecchi minuti alle due belle finestre saracinesche che erano aperte, per guardare dentro ed esaminare le possibilità della sala, e lamentare che il suo scopo originario fosse cessato. Non vide difetti nella stanza, né volle conoscere quelli che essi insinuarono. No, era abbastanza lunga, abbastanza larga e abbastanza bella. Poteva contenere proprio la quantità di persone che ci voleva per un ballo comodo. Avrebbero dovuto tener balli qui almeno ogni 15 giorni per tutto l'inverno. Perché Miss Woodhouse non aveva ridato vita a quei bei giorni antichi della stanza? Lei che poteva fare ogni cosa a Ivory. Gli venne fatto presente che sul posto mancavano famiglie distinte e che si poteva essere certi che al di là del paese e dei suoi dintorni immediati nessuno si sarebbe sentito tentato di intervenire. Ma lui non rimase soddisfatto. Non poteva persuadersi che tutte quelle belle case che scorgeva intorno non potessero fornire abbastanza gente per un tal ritrovo. E anche quando gli furono date dei particolari e gli vennero descritte le famiglie, rimase contrario ad ammettere che avesse peso la sconvenienza di una tale mescolanza, o che ci potesse essere la minima difficoltà perché tutti tornassero al proprio posto la mattina seguente. Argomentava con un giovanotto molto proclive al ballo, ed Emma fu piuttosto sorpresa a vedere l'indole dei Weston prevalere così decisamente contro le abitudini dei Churchill. Pareva possedere tutta la vitalità e lo spirito, i gai sentimenti e le tendenze sociali del padre, e nulla della superbia o del riserbo degli Enscombe. Di superbia, in verità, non ce n'era forse abbastanza. La sua indifferenza alla confusione dei ceti confinava troppo con ineleganza d'animo. Egli, tuttavia, non poteva giudicare l'inconveniente di cui faceva così poco conto. Non si trattava che di un'effusione di vivacità. Alla fine venne persuaso ad allontanarsi dalla facciata della Corona, e trovandosi ora quasi di fronte alla casa dove abitavano le Bates, Emma ricordò la visita che gli intendeva fare il giorno innanzi e gli chiese se l'avesse fatta. «Sì, oh sì», ripeté, «stavo per parlarvene, un gran successo. Ho visto tutte e tre le signore e mi sono sentito molto obbligato a voi per il vostro cenno di preparazione. Se la zia chiacchierona mi avesse colto di sorpresa, mi sarebbe venuto un accidente, ma invece così mi sono lasciato andare a fare una visita tutt'altro che ragionevole. 10 minuti sarebbero stato quanto era necessario, forse quando era conveniente, e avevo detto a mio padre che sarei giunto a casa certo prima di lui. Ma non c'era modo di congedarsi, non c'era pausa. E con mio sommo stupore m'accorsi, quando lui, non trovandomi altrove, mi venne a cercare là alla fine, che ero rimasto a conversare per circa 3/4 d'ora. La buona signora non mi aveva dato prima la possibilità di svignarmela. E che aria vi è parso che avesse, Miss Fairfax? Malata, assai malata, ammettendo che una signorina possa mai avere un aspetto malato. Ma tale espressione non si può concedere, non è vero, Mrs. Weston? Le signore non possono mai avere l'aspetto malato. E, sul serio, Miss Fairfax è così pallida di natura da dar quasi sempre l'impressione di cattiva salute, una deplorevole mancanza di colorito. Emma non era d'accordo su questo e cominciò una calda difesa del colorito di Miss Fairfax. Certo, non era stato mai brillante, ma non poteva ammettere che in genere avesse una tinta malaticcia, e la sua pelle aveva una morbidezza e una delicatezza che conferivano particolare eleganza al tipo del suo volto. Egli ascoltò con tutta la debita deferenza, riconobbe d'aver sentito dire le stesse cose a molte, ma pur doveva confessare che per lui nulla poteva compensare la mancanza del bell'incarnato. Dove i lineamenti erano mediocri, una bella carnagione li abbelliva tutti, e dove erano belli, l'effetto era... Fortunatamente non c'era bisogno che tentasse di descrivere qual era l'effetto. «Ebbene», fece Emma, «dei gusti non si discute. In ogni modo, colorito a parte, voi l'ammirate». Egli scosse il capo e rise. «Non riesco a separare Miss Fairfax dal suo colorito». «L'avete veduta spesso, Weymouth? Vi siete trovati spesso nella medesima società?» Frattanto stavano avvicinandosi al magazzino Ford ed egli esclamò d'un tratto. «Ah, questo deve essere proprio quel negozio dove ognuno si reca ogni giorno della sua vita, come mi informa mio padre. Lui stesso viene a Ivory, mi dice, 6 giorni della settimana e sempre a commissioni da Ford. Se non vi scomoda, vi prego, entriamo per dimostrare che io pure sono del paese, un vero cittadino di Ivory. Devo comprare qualcosa da Ford. Equivarrà all'acquisto della cittadinanza. M'immagino che vendano guanti. Sicuro, guanti e ogni cosa. Proprio ammiro il vostro patriottismo. Vi adoreranno a Ivory. Eravate già molto popolare prima di venire, perché figlio di Mr. Weston, ma spendete mezza guinea da Ford e la vostra popolarità sarà attribuita alle vostre virtù». Entrarono. E mentre erano portati giù e mostrati sul banco i lisci pacchi ben legati di guanti di castoro per uomo e guanti marroni di York, egli disse: «Ma vi chiedo scusa, Miss Woodhouse, voi mi parlavate, mi dicevate qualcosa proprio nel momento di quella mia esplosione di amor patrio. Non me la fate perdere, vi assicuro che la più vasta estensione di fama pubblica non mi compenserebbe della perdita di una felicità nella vita privata. Chiedevo soltanto se avevate conosciuto dal vicino Miss Fairfax e la sua compagnia a Weymouth. E ora che intendo la vostra domanda, devo dire che è molto ingiusta. Una signora ha sempre il diritto di decidere sul grado di conoscenza. Miss Fairfax deve avervi già riferito. Io non mi comprometterò pretendendo più di quanto essa piaccia ammettere». «Parola d'onore, voi rispondete con tanta discrezione che lei stessa non ne oserebbe di più. Ma ogni cosa che lei racconta lascia tanto da indovinare. Essa è così riservata, tanto restia a dare la minima informazione su chiunque, che io credo davvero che voi possiate dire quel che volete circa la vostra conoscenza di lei». «Davvero lo posso? Allora dirò la verità, e nulla mi garba di più. L'ho incontrata spesso a Weymouth. Avevo conosciuto un po' i campi in città, e a Weymouth ci muovevamo parecchio nello stesso ambiente. Il colonnello Campbell è un uomo assai piacevole e Mrs. Campbell è una donna socievole e cordiale. Li trovo tutti simpatici. Ne concludo che sapete qual è la situazione di Miss Fairfax nella vita e che cosa essa è destinata a essere». «Sì», con qualche esitazione, «credo di sì». T'avventuri su un tema delicato, Emma, disse sorridendo Mrs. Weston. Ricordati che io sono qui. Mr. Franciosi non sa che cosa dire quando parli della situazione di Miss Fairfax nella vita, ma allontanerò un poco. Certo, io mi dimentico di pensare a lei, disse Emma, ma lei non è stata mai altro per me che la più cara amica. E gli guardò come se comprendesse appieno e onorasse tal sentimento. Quando furono comprati i guanti ed essi ebbero lasciato il negozio, «Avete mai sentito suonare la signorina di cui parlavamo?» disse Franciosi. «Se l'ho sentita», ripeté Emma. «Dimenticate quanto essa appartiene a Ivory. L'ho sentita ogni anno delle nostre vite, da quando entrambe abbiamo cominciato. Suona che è un incanto». «Tale è la vostra opinione, è vero? Desideravo appunto il parere di qualcuno che fosse veramente in grado di giudicare. A me è parso che suonasse bene, cioè con parecchio gusto, ma io non mi intendo di queste cose. La musica mi piace moltissimo, ma senza che io possegga la minima abilità o il minimo diritto di giudicare dell'esecuzione di alcuno. Sono stato solito di sentire ammirare la sua, e mi ricordo d'una prova che essa aveva la fama di suonar bene. Un uomo molto musicale e innamorato di un'altra donna, fidanzato con questa, anzi, alla vigilia delle nozze, pure non chiedeva mai a quell'altra di sedersi allo strumento, se la signora di cui parliamo poteva sedersi in sua vece. Non pareva che gli piacesse mai di sentire l'una se poteva sentire l'altra. In un uomo di riconosciuto talento musicale questa mi è parsa una bella prova. Una prova davvero, disse Emma, assai divertita. Mr. Dixon è molto musicale, no? Tra mezz'ora ne sapremo di più da voi su tutto loro di quanto Miss Fairfax non avrebbe condisceso a far sapere in mezz'anno. Sicuro. Mr. Dixon e Miss Campbell erano le persone a cui allidevo e mi parve una prova fortissima. Certo, era fortissima. A dire il vero, un bel po' più forte di quanto sarebbe piaciuto a me se io fossi stata nei panni di Miss Campbell. Non potrei scusare un uomo d'aver più musica che amore, più orecchie che occhio, una sensibilità più acuta per i bei suoni che per i miei sentimenti. E come pareva che Miss Campbell prendesse la cosa? Si trattava della sua amica del cuore, sapete. Magra consolazione, disse Emma ridendo. Una preferirebbe di vedersi anteposto un'estranea piuttosto che la propria amica del cuore. Con un'estranea la cosa può non ricapitare di nuovo. Ma che infelicità avere un'amica del cuore sempre accanto, a fare ogni cosa meglio di noi. Povera Mrs. Dixon. Ebbene, son lieta che sia andata a stabilirsi in Irlanda. Avete ragione, non era molto lusinghiero per Miss Campbell, ma realmente non pareva che lei lo sentisse. Tanto meglio o tanto peggio, non so decidere, ma sia stata in lei dolcezza di carattere o stupidità, vivacità d'amicizia o ostosità di sentire, c'è una persona, credo, che deve averlo sentito. La stessa Miss Fairfax. Lei deve aver sentito quant'era sconveniente e pericolosa la distinzione. Quanto a questo, io non... Non immaginatevi che io mi aspetti da voi o da qualsiasi altra persona un ragguaglio delle sensazioni di Miss Fairfax. Sono sicura che il solo essere umano a conoscerla è lei stessa. Ma se essa seguitò a suonare ogni volta che Mr. Dixon glielo chiese, si può congetturare quel che si vuole.